Cos'è quest'estate? Di Roberta Giordano. Ben svegliati a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a qualsiasi ora vi siate alzati, ricordate che siete puntuali qui a Ma cos'è quest'estate per 2 ore tutti i giorni. Questa è l'ultima puntata della settimana, poi naturalmente ci sentiamo anche la prossima. Andiamo avanti sino alle 10, quindi di argomenti ce ne sono moltissimi anche oggi. Inizieremo con la sanità in agosto. Qual è lo stato di salute della sanità in Italia in questo mese? Chiaramente anche medici, infermieri, personale paramedico deve andare in ferie in questo periodo, però con quali limiti e con quali conseguenze, soprattutto perché le malattie, gli incidenti eccetera non vanno in ferie. E poi per stare bene, a proposito di salute, l'elogio della pitnichella. C'è l'ennesimo studio, questa volta dell'American College Cardiology, che dice che la pitnichella, insomma, allunga la vita purché non sia oltre un certo limite di minuti, e scopriremo quali. E poi naturalmente molti saranno in partenza, è venerdì, c'è il fine settimana, poi c'è Ferragosto e quindi inizia il cosiddetto esodo estivo. Parleremo del decalogo, almeno per strade e autostrade, per comportarsi con prudenza ed evitare quindi spiacevoli imprevisti. Le stelle cadenti, ieri era San Lorenzo, molti avranno tenuto il naso in su per chissà quanto tempo, però sappiate che il picco delle stelle cadenti è tra domani sera e dopodomani sera, e anche di questo ci occuperemo, così saprete come scrutare con una certa consapevolezza il cielo. Intanto invece scrutiamo gli altri argomenti, tra poco c'è la viabilità. Ma vi ricordo che per tutti questi temi potete sempre intervenire durante tutte le 2 ore al numero verde 800 24 00 24. Numero verde quindi, come sempre, gratuito e anche ecologico, perché almeno evitate di disperdere energie e pensieri in altri rivoli, invece li concentrate qui su Ma cos'è quest'estate. E poi c'è anche il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre il 349 238 6666. Intanto, per conciliare, diciamo, la giornata, vediamo subito le dichiarazioni di Pyongyang, di Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, che dice, dopo che si è aperto uno spiraglio di mediazione nelle ultime ore, dice: cancelleremo gli Stati Uniti. Mi sembra abbastanza, diciamo, emblematica questa frase. Vedremo come sale questa tensione, ieri ne abbiamo parlato lungamente. Però adesso, prima di salutare gli ospiti, già vedo tutti in collegamento, direi di aggiornare chi ascolta questa trasmissione viaggiando. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Ma cos'è quest'estate? Io sto bene, io sto male, io non so dove stare. Io sto bene, io sto male, io sto bene, io sto male. Questo per introdurre ovviamente l'argomento sanità in agosto. Però, visto che non so se non siete già in ferie, no? Voi del traffico? No, ci siamo qui. Buona giornata a tutti. Ciao. Sì, a volte problemi di linea. Pensavo, si vede che anche loro hanno detto: ah, caspita, siamo a Ferragosto. Invece, quindi siete lì puntualmente e ci dici se ci sono problemi su strada, sì, autostrada, allora, venerdì. È una notizia appena arrivata proprio qualche minuto fa. Sì. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia il traffico è attualmente bloccato per incidente tra Felizzano ed Asti Est in direzione Torino, mentre in Lombardia rimane chiusa sempre per incidente la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Piona e Trivio in direzione Sondrio. In Toscana rallentamenti per incidente sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze, e infine nel Lazio incolonnamenti per lavori sulla via Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione Roma Centro. Ed è tutto. Grazie, tutto. E invece adesso cominciamo proprio dall'inizio con l'argomento, lo stato di salute della sanità in agosto, no, perché agosto, anche se le abitudini degli italiani nel tempo sono cambiate, si sa che è sempre il mese preferito per fare le ferie, ne parlavamo proprio in questi giorni, l'aveva confermato anche il presidente di Federalberghi, e però si rischia che, visto che sono, diciamo, il periodo preferito da tutti, si rischia che molti servizi, insomma, non siano così puntuali come magari durante l'anno, no? Un aspetto che volentieri lenti o nolenti riguarda appunto anche il sistema sanitario. Ci sono alcuni casi di cronaca in questi giorni che hanno ricordato che anche la sanità in parte va in vacanza, e legittimamente naturalmente, ma con quali conseguenze e con quali limiti che magari dovrebbero essere posti. Il caso più eclatante, e quello l'avrete letto dalle cronache e l'avrete sentito naturalmente anche qui a Radio 24, il caso di una giovane donna, una figlia che cerca di soccorrere il padre che ha un malore, si capisce, una cosa grave, forse un infarto, un ictus, ancora è da chiarire. Continua a chiamare il 118 e al 118 va avanti una voce registrata di donna che dice rimanga in attesa, avete presente quando a volte si chiamano dei call center eccetera. Questo succedeva all'inizio, quando c'è stato questo malore, alle 3 di notte, e lei poi ha chiesto aiuto alla sorella, al cognato, che anche loro al fratello, anzi è alla cognata, che a loro volta hanno cercato di chiamare il 118, sempre con questa voce registrata. Poi, dopo aver chiesto anche aiuto ai vicini, insomma, verso le 3.34, 3.36, quindi era passata più di mezz'ora, qualcuno risponde dall'altra parte, un operatore che però le dice: guardi, la metto in collegamento col 118, e di nuovo, insomma, continua questa voce registrata finché il padre muore e non c'è più niente da fare. Ci sono stati poi anche altri casi. Avete visto quel video di un ospedale romano dove c'era un anziano che strisciava per terra perché si era rotto il femore e voleva essere operato, ritardavano ad operarlo e lui per protesta, insomma, strisciava lungo il pavimento dell'ospedale. Parliamo di tutto questo con Barbara Gobbi del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Ciao, buongiorno Roberta, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E poi buona c'è Carlo, giornata. Buona giornata a te. Carlo Rosa, che è coordinatore della Protezione Civile della Regione Lazio e responsabile della Centrale Unica di Risposta del numero 112. Rosa, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Buongiorno a Carlo Palermo, vice segretario nazionale dell'Associazione Medici Dirigenti. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno anche a Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanza Attiva del Lazio. Rosati, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. E a Laura Santoro, referente regionale del Sindacato Infermieri Nursing Up Lazio. Buongiorno Santoro. Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Allora, diciamo, Barbara Gobbi, che il sistema sanitario nazionale italiano è uno dei più invidiati al mondo, lo è stato magari soprattutto in passato, però anche adesso possiamo dire che è uno di quelli con la maggiore qualità, insomma, no? Per l'assistenza, per anche la capillarità, sì, eccetera. Però diciamo, con i tagli degli ultimi anni qualcosa sicuramente è peggiorato, e chiaramente in agosto il tutto poi assume, diciamo, delle caratteristiche ancora un po' più, come possiamo dire, problematiche. Tu vuoi farci un quadro intanto dello stato di salute del nostro sistema sanitario nazionale? Certo, allora il pronto soccorso che hai citato tu precedentemente è un po' la cartina di tornasole di quello che è lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale, che come dicevi è buono, e ad esempio il pronto soccorso è stato promosso con un buono secco dai pazienti, secondo quanto risulta dall'ultimo monitoraggio del Tribunale per i diritti del malato, però purtroppo ha delle magagne dovute sicuramente a un effetto della crisi economica che ha riguardato la sanità, così come moltissimi altri servizi essenziali. Da 10 anni a questa parte abbiamo avuto ad esempio un taglio dei posti letto disponibili negli ospedali di 70.000, e che ovviamente hanno avuto una conseguenza sull'assistenza ai pazienti e sulla gestione dei pazienti stessi. Chiaro. C'è anche in atto un blocco del turnover, cioè del ricambio del personale, proprio per far fronte a delle esigenze di contenimento della spesa, che inevitabilmente poi ha portato alla riduzione degli organici anche in aree strategiche come il pronto soccorso. Per cui il caso delle inadeguatezze del 112 e del 118 che sono emerse nei giorni scorsi sicuramente, diciamo, fa scopa con una situazione sicuramente complessa. E non a caso, infatti, si stima che anche in una giornata normale, cioè non di picco di caldo o di picco da emergenza influenzale durante l'inverno, siano oltre 3.000 i pazienti in attesa di un posto letto in pronto soccorso, e l'attesa sulle barelle può protrarsi anche per giorni. Questi dati ovviamente arrivano ai pazienti come una, no, una, assolutamente come una scure, specialmente poi quando riguardano casi personali come quello drammatico che si è svolto nei giorni scorsi. Ricordiamo che tra l'altro ieri il Ministero questo della Salute, nel Lazio è successo, a Roma, sì sì, ha disposto l'invio di una task force per l'analisi del caso in particolare. Sicuramente la gestione del pronto soccorso appunto è un tema delicatissimo e il nostro Servizio Sanitario Nazionale è in una fase di transizione che dovrebbe portare a, non dico a superare perché forse è una chimera questa vista diciamo la complessità dell'SSN, ma a migliorare i servizi, come potenziando le cure sul territorio. È in atto diciamo la revisione del contratto per la medicina generale, che significa potenziare il ruolo di gatekeeping, cioè di la capacità di intercettare da parte dei medici di famiglia i pazienti prima che questi arrivino in pronto soccorso. E diciamo da parte degli infermieri poi ci sono delle proposte di collaborazione attiva che poi sono state registrate dal nuovo piano nazionale cronicità. Anche questo è un documento importantissimo che dovrebbe diciamo permettere al territorio di farsi carico degli oltre 20 milioni di accessi che ogni anno si hanno in pronto soccorso e che non sempre sono giustificati poi dalla gravità o che potrebbero essere gestiti meglio e in maniera più efficiente e forse più rapida sul territorio. Barbara, c'è un ascoltatore, Roberto. Intanto ricordo che c'è sempre il numero verde per voi ascoltatrici e ascoltatori per intervenire, parlare anche delle vostre esperienze rispetto al Sistema Sanitario Nazionale, in particolare in questo periodo, anche positive ovviamente. 800 24 0024 800 24 0024, numero verde. Dicevo, Roberto invece al numero per i messaggi WhatsApp, che è il 349-238-6666, dice: guardi che il governo Renzi e Gentiloni hanno investito, non tagliato, sulla sanità. Tu stavi dicendo che siamo in un periodo di transizione per migliorare, dicevi. Sì, diciamo che noi abbiamo parlato di tagli che datano da 10 anni a questa parte, per cui il governo Renzi e Gentiloni sono sicuramente molto più recenti. Sicuramente nell'ultima legge di bilancio c'è stata una previsione di un aumento di 1 miliardo del Fondo Sanitario Nazionale, che ora è a 113 miliardi di euro, però è anche vero che molte di queste risorse sono state vincolate, come tra l'altro giusto, e destinate ai farmaci innovativi, cioè a tutta una serie di previsioni che tengono conto proprio dell'avanzare delle tecnologie anche dal punto di vista farmaceutico e farmacologico, che è sicuramente importantissimo, ma dal punto di vista della riorganizzazione dei servizi c'è un problema, ed è un problema che poi i cittadini vivono tutti i giorni sulla propria pelle. Si può fare di sicuro meglio e di più. E a questo proposito chiedo a Carlo Palermo, che è appunto vice segretario nazionale dell'Associazione Medici Dirigenti, cosa ne pensa del quadro che faceva la nostra Barbara Gobbi della appunto necessità anche di migliorare il servizio, soprattutto in certi periodi, e di quello che è successo in questi giorni. Perché qualcuno dice, insomma, per esempio leggevo, non so, che qui sei in un ospedale romano, insomma è una situazione che però è abbastanza comune da nord a sud, e particolarmente al sud, con magari medici e dirigenti che sono in ferie e che magari lasciano gestire un po' il tutto, soprattutto a carico degli infermieri. Le risulta, Palermo? Ma io penso siano delle situazioni che forse andrebbero meglio analizzate, queste specifiche. Comunque l'analisi fatta da Barbara Gobbi è assolutamente condivisibile. Posso aggiungere qualche numero, soprattutto per quanto riguarda il taglio dei posti letto. Lei consideri che oggi in Italia siamo al 3,4 per mille abitanti. Se ci confrontiamo con i paesi a noi vicini, la Germania c'ha l'8 per mille, la Francia c'ha il 6 per mille, l'Austria c'ha il 7 per mille, la Svizzera c'ha il 5 per mille, e ancora non ho capito chi è il furbo e chi è lo stolto in questa situazione, anche se incomincia a sospettare che gli stolti siano molto vicini a noi. Quando si rende un sistema fragile con il taglio dei finanziamenti che c'è stato, che se ne dica, quando il personale è stato ridotto di fatto dal 2009 a oggi del 10%, quando il taglio dei posti letto è stato quello appena descritto, un sistema così fragile paradossalmente va in tilt per questioni fisiologiche, perché il diritto alle ferie è un diritto inalienabile, lo certo. dice la Corte Costituzionale, c'è poco da fare. Io faccio il direttore di una struttura complessa, i miei i collaboratori hanno diritto nel periodo che va da giugno a settembre ad almeno 18 giorni consecutivi di ferie, perché 15 sono i giorni feriali, uno ci mette le domeniche dietro, siamo a 18 giorni. Mi scusi solo Palermo, ma riuscite comunque almeno diciamo a coordinare i turni in modo che non ci siano magari allora, dei periodi in cui è sguarnito di medici? Io lavoro in Toscana, va bene? Lavoro in Toscana e nella mia USL che ha una dotazione organica, almeno per quanto riguarda la componente medica, adeguata, i turni vengono coordinati, perché ovviamente basta distribuire nel periodo in cui siamo obbligati a dare le ferie, basta distribuire questo diritto, sono 4 mesi. Ma in situazioni in cui c'è il blocco del turnover, in situazioni in cui l'unica possibilità è quella di tagliare i posti letto per poter godere di un diritto inalienabile, e magari questi posti letto sono al di sotto della media anche italiana, guardi tutte le situazioni del meridione che hanno dovuto affrontare, delle regioni meridionali che hanno dovuto affrontare i piani di rientro, è chiaro che il sistema va in tilt, la possibilità di accesso alle cure, il diritto di accesso alle cure dei cittadini viene in qualche modo menomato. Questi sono i dati. I dati, mi meraviglio che ci si meravigli. Palermo, voglio caso data storia. Visto che lei rappresenta i medici, vorrei sentire anche chi rappresenta gli infermieri, come Laura Santoro, referente regionale, lo ricordo, del sindacato infermieri Nursing Up del Lazio. Santoro, le condivide le argomentazioni di Palermo? Assolutamente sì, non possono che non essere condivisibili, sia lo specchio che avete rappresentato che il resto. Io posso dire che in tutta Italia sono stati ridotti ad esempio le unità infermieristiche di 7.500 unità, ma vi posso dire che almeno il 72,5% sono successe solo in regioni come Lazio, Calabria e Campania, e qui diciamo parliamo che abbiamo delle rare forme di aumento dell'unità infermieristica in Valle d'Aosta, ma nel Lazio ad esempio abbiamo meno 8,38 unità infermieristiche. Quindi si sta investendo ad esempio nel Lazio, come dicono, in tecnologie, ma forse mancano le risorse umane e le tecnologie vanno utilizzate da risorse umane. Come ricordava Barbara Gobbi, c'è un ascoltatore fra gli altri, all'800240024, Carlo, che chiama da Roma. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo decontestualizzare un attimo. Per il problema della gestione del numero 112 anche fuori dall'ambito 118 sanità. Allora scusa Carlo, siccome poi ne parleremo, l'avevo già annunciato un po' all'inizio, parleremo anche del numero unico 112. Perfetto. Che è quello che dovrebbe più o meno esistere da 2 anni, tutti i numeri d'emergenza 118, 113 possono convogliare in questo 112 che diciamo è previsto da un obbligo europeo di avere un unico numero in modo da facilitare anche per le persone che hanno bisogno di fare una chiamata d'emergenza. Prego. Carlo, sì. E quindi mi occupo di soccorso stradale, non mi occupo chiaramente di persone ma di veicoli, ma ogni volta che devo fare una comunicazione di emergenza per un problema immediato, attraverso la gestione del numero unico io riesco a parlare con un operatore, con l'operatore che mi deve ascoltare, non prima di 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Questo ritardo nella risposta è estremamente destabilizzante nei confronti di chi chiama. Dici, già col soccorso stradale tu ti occupi di veicoli, però hai fatto la prova. Sì, però sì. Io devo segnalare un problema. Io ho segnalato giorni fa un principio di incendio dentro Roma, dentro un'area verde, e ho chiesto immediatamente all'operatore, mi può passare il numero diretto del Vigili del Fuoco? Mi ha dovuto identificare e chiedere chi ero, dove ero, quando ero, se ero. Non funziona così, non può funzionare così. Se è pronto intervento, così il cliente utente diventa estremamente reattivo, e io sono diventato reattivo dicendo al povero ragazzo: guarda, mi devi passare subito il numero dei Vigili del Fuoco, mi identificherai dopo, domani, dopodomani. Parliamo di emergenza, non parliamo di burocrazia. Qui è stato inserito un filtro di burocrazia che serviva a qualcuno, e la risposta al cittadino è drammatica. Carlo, proprio come sensazione. Sì, sì, no, è stata chiara la tua esperienza, la tua testimonianza, e richiama un po' quel caso di cronaca drammatico di cui parlavo all'inizio. Allora, su questo coinvolgerei Carlo Rosa, che è appunto coordinatore della Protezione Civile della Regione Lazio, responsabile della Centrale Unica di Risposta del numero 112. Rosa, ha sentito questa cosa? Ha sentito questo caso di cronaca? Sentito. Ci spiega solo, io l'ho detto prima in sintesi, cos'è il 112, no? Ce lo rispiega lei? Allora, lei giustamente è partita dal fatto che questo numero unico 112 è stato adottato da tutti i paesi europei per fare in modo che qualsiasi cittadino di qualsiasi paese europeo che è in Italia possa chiamare lo stesso numero che chiamerebbe nel suo paese, e noi a nostra volta, ovunque siamo in Europa, con lo stesso numero possiamo essere ascoltati. Le aggiungo una cosa, che qui da noi, per esempio, noi possiamo ricevere telefonate e trattarle in almeno 14 lingue, abbiamo dei traduttori in diretta ci consentono appunto di dare questo servizio di standard. Quindi, e di livello europeo. Il 112 in tutta Europa si può chiamare e si può ricevere, esatto, risposta in, esatto, tutte le lingue. Via via si sta costruendo, nel Lazio è partita Milano, in Italia è partita Milano, poi è partita Roma, adesso è partito il Piemonte e via via si sta le diffondendo. Altre regioni si stanno I tempi di risposta e di intervento? Allora, guardi, noi abbiamo ricevuto nel 2016 2.900.000 chiamate, quasi 3 milioni di chiamate. La media della centrale di risposta di Roma, città, è di 7.000 chiamate al giorno, che dà questi numeri, diciamo, annuali. In tutto l'anno abbiamo avuto un tempo di risposta di 18 secondi. I dati che dico sono, non li trattiamo noi, c'è un osservatorio nazionale dal quale noi riceviamo notizie, ma non sono numeri che trattiamo noi. 18 secondi sono 3 squille di telefono. Nei 18 secondi pesano i periodi più difficili, come questi drammatici, come l'estate, che a luglio soprattutto, che abbiamo vissuto, dove per gli incendi boschivi, per darle un esempio, i vigili del fuoco, che al 115, che intercettiamo sempre noi, ricevono durante l'anno mediamente 300 chiamate al giorno, sono passati a 5.000 chiamate al giorno. Quindi con una crescita esponenziale che ovviamente un po' ritarda i tempi di risposta, e per questo anche la media annua arriva a 18 secondi, altrimenti sarebbe al di sotto dei 10 secondi alla risposta. Rosa, vorrei sentire su questo Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanza Attiva Lazio. Voi che esperienza avete anche come punto di riferimento di chi magari vuol far rispettare i propri diritti? Sappiamo, siete attivi in questo. Diciamo che la situazione è assolutamente drammatica. È inutile girarci intorno. Il problema vero è che è verissimo, le ferie sono un diritto di tutti, però pare che nel mese di agosto la sanità vada in ferie. I motivi sono differenti, sono stati anche spiegati dettagliatamente da chi ci ha preceduto adesso. Quindi i tagli, noi parliamo adesso anche di una realtà regionale come il Lazio, che sono 10 anni che è commissariata. Insieme alla Campania, insieme alla Calabria, sono realtà regionali che sul versante della sanità hanno pagato in termini di tagli, di riduzioni, di blocco di turnover, un carico pesantissimo. Questi purtroppo sono gli effetti. È inutile starci a girare troppo intorno, a cercare chissà quale spiegazione, perché è evidente che se c'è un blocco del turnover del personale, quindi una persona va in pensione e non viene rimpiazzata, nel pronto soccorso, grave nella sanità, chiaramente. Esattamente, nel pronto soccorso l'età media degli operatori si è molto alzata, ci sono medici e infermieri che fanno doppi e tripli turni. È evidente che poi quando si arriva in situazioni di sovraccarico, di emergenza, di ferie, nemmeno tanto di emergenza, perché qui l'emergenza non ci sarebbe se ci fossero a disposizione le risorse umane e la programmazione per la gestione dei turni di ferie, perché è evidente che questo manca. Poi se entriamo nel dettaglio delle modalità di come funziona un servizio come il 112 rispetto ad altre cose, leggevo stamattina sulla stampa che il dato è un pochino diverso da quello che diceva il dottor Rosa adesso, perché pare che su Roma ci sia un ritardo di 60 secondi, mentre a Milano rispondono in 9 secondi. Sì, pare che in Lombardia, adesso non per fare, però funzioni piuttosto bene. Esatto, cioè anche qui bisognerebbe capire, e vorremmo anche noi capire, visto che è stata indetta una riunione al Viminale, quali sono i dati veri, perché altrimenti qui facciamo tutti quanti delle bellissime statistiche, ognuno di noi ha dei numeri da dare o da snocciolare, però il dato vero che resta è che ci sono delle persone che devono accedere al servizio sanitario pubblico, perché il tema è quello dell'accesso, certo. E hanno come unico e principale punto di riferimento il pronto soccorso, perché la realtà è che nei territori oramai non c'è più nulla dal punto di vista dell'assistenza territoriale. Quindi anche chi ha patologie croniche, sono sempre di più gli italiani che hanno questo tipo di patologie, cioè che si devono portare dietro una patologia vita naturale durante, accedono in questi periodi al pronto soccorso. Al pronto soccorso che si congestiona chiaramente. Esattamente. Rosati, vorrei sentire, perdoni, un attimo, Emanuele da Milano, sempre al numero verde 800 24 00 24. Emanuele, prego. Buongiorno, salve. Allora, ciao, niente, volevo raccontare due episodi abbastanza paradossali che sono capitati ai miei figli durante le festività, quando eravamo in ferie in Liguria, no? Allora, mio figlio Diano Marina si è rotto il polso giocando, abbiamo chiamato il 118, è uscita l'ambulanza, e la cosa paradossale è che una volta arrivati al pronto soccorso di Imperia sembrava quasi che non avessero mai curato dei bambini, perché guardavano mio figlio con una faccia come se fosse un extraterrestre, han provato a muovergli il polso per cercare di rimetterlo in posizione, ma non erano capaci, si vedeva. E allora ci hanno chiesto se volevamo riportare il bambino a Milano, dove abitiamo noi, o portarlo al Gaslini. Abbiamo optato per il Gaslini, e poi lì vabbè, è andato tutto bene, perché il Gaslini lo conoscono tutti. Senti, questo in che periodo, quindi? D'estate? Allora, questo qui era febbraio, che eravamo lì per un weekend a Diano Marina. Invece mia figlia di 3 anni, questa volta era agosto, sempre a Diano Marina, infezione delle vie urinarie, non riusciva a fare pipì, diciamo. Viene portata al pronto soccorso a Imperia, e situazione ancora più incredibile: il reparto di pediatria in quel periodo doveva chiudere, e quindi l'hanno spostata all'ospedale di Savona per motivi che non si capiscono. Ecco. O ti conviene cambiare luogo di vacanza? È bellissima Diano Marina ed è bellissima la Liguria. Sto scherzando, senso, sei stato particolarmente sfortunato, chissà, Emanuele. Allora, siccome la nostra Barbara Gobbi poi ci deve lasciare, perdonami, Barbara, quindi ti chiedo, prima di lasciarci e di questa pausa, allora il grosso problema, diceva fra le altre cose, un po' tutti gli ospiti, il blocco del turnover, che è una cosa molto grave, no? Nella sanità succede anche in altri ambiti pubblici, però qui è poi diciamo particolarmente penalizzante per gli utenti, chiamiamoli così. Ma la questione degli sprechi, no? È tanto che si parla di tagli degli sprechi nella sanità, far costare la siringa con un prezzo uguale dal sud al nord, però al di là di tutto questo si comprende che effettivamente non si può continuare in queste condizioni, no? La sanità, certo, è sempre stata un po' uno dei primi obiettivi quando c'erano da fare dei tagli, si dice sempre la sanità e la scuola, però insomma sulla sanità non sì, si può scherzare. Allora, sicuramente ci si è trovati negli anni scorsi di fronte a un'emergenza eccezionale, appunto il combinato disposto della crisi che ha picchiato durissimo in tutti gli ambiti dell'economia, e la sanità è molto economia, perché dobbiamo pensare che copre l'80% dei bilanci regionali, incide moltissimo. Dall'altra parte c'è stata appunto questa esigenza di incidere laddove gli sprechi erano stati fatti, perché appunto il famoso prezzo della siringa, che viene presentato come paradigmatico, anche se molteplici potrebbero essere gli esempi, è proprio emblematico. No? Non è possibile che costi in un modo a Reggio Calabria, che costi assolutamente, diciamo, una percentuale decisamente inferiore ad esempio a Milano. Allora, si è inciso su questo aspetto, però è più che tempo di ribilanciare le politiche sanitarie in questo senso, e soprattutto di intervenire un po' con il bisturi, visto che si parla di sanità, cioè ben vengano gli acquisti centralizzati, che sono stati introdotti ormai qualche legge finanziaria fa, e che su cui diciamo si continua a puntare, ben vengano sicuramente questi aspetti, però è anche il caso diciamo di ridare fiato a quelli che sono, a quelle che sono le politiche del personale, perché mi pare di capire che poi tutti gli ospiti, tutti i tecnici che sono intervenuti a questa trasmissione hanno veramente posto l'accento su questo aspetto, le risorse sanitarie, che significa anche però formazione, significa anche tutta, diciamo, coprire e curare tutto un ambito di valorizzazione del personale sanitario di cui i pazienti hanno assolutamente bisogno. Ci si sta lavorando, sono in atto appunto delle riforme fondamentali, tra queste vorrei citare la revisione dei livelli essenziali di assistenza, che sono le cure che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è obbligato, è tenuto a prestare gratuitamente o dietro pagamento di ticket a tutti i cittadini. Ben vengano, ma perché queste cure siano effettivamente esigibili, perché ogni cittadino possa, diciamo, giovarsene, è necessario che ci sia anche un personale, un'organizzazione adeguata. Grazie Barbara Gobbi. Ciao Barbara. Grazie a voi. Ciao, buona continuazione. Giornata. Con gli altri ospiti, ciao. Se avete ancora diciamo qualche minuto, ci risentiamo subito dopo una brevissima pausa. Poi gli ascoltatori possono continuare a chiamare il numero verde 800 24 0024. Ma cos'è quest'estate? Nel dubbio mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele. Stiamo parlando di sanità in agosto, che diciamo sicuramente presenta delle situazioni spesso problematiche, diciamo così, di disguidi, di disagi, perché già si parlava di tanti tagli che comunque sono partiti da 10 anni a questa parte in campo, e non solo, in campo sanitario, del sistema sanitario nazionale, quindi possiamo immaginare ad agosto anche le cose come possano in certi casi peggiorare. Abbiamo citato alcuni casi di cronaca, ci sono molti ospiti, abbiamo appena salutato Barbara Gobbi del Sole 24 Ore, che ci ha fatto un po' un quadro della situazione nazionale e anche di quelle che sono le luci e le ombre del nostro sistema sanitario nazionale. Ci sono poi Carlo Rosa, che è coordinatore della Protezione Civile della Regione Lazio e responsabile della centrale unica di risposta del numero 112, un numero fondamentale, importante, che c'è da circa 2 anni, non in tutte le regioni ancora in Italia, ma è previsto come obbligo europeo, in modo da facilitare anche la richiesta di emergenza da parte dei cittadini. C'è Carlo Palermo, vice segretario nazionale dell'Associazione Medici Dirigenti, Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanza Attiva, e Laura Santoro, referente regionale del sindacato Infermieri Nursing Up Lazio. Ci sono poi le vostre telefonate all'800 24 0024. Siccome siamo ancora un pochino su questo tema, se volete approfittare di fare le vostre domande, parlare delle vostre testimonianze, c'è Antonio da Roma, per esempio. Antonio? Buongiorno. Buongiorno Antonio. Senta, guardi, io volevo parlare del numero unico perché veramente ci sono rimasto proprio male. Io ho fatto sia il 112 che il 115 e praticamente la risposta ce l'ho avuta dopo 7, 8, 9 minuti, non solo. Quando ho avuto la ricezione dell'operatore, mi ha detto: rimanga lì, adesso le passo il 115, altrimenti lei perde la priorità. E quindi ho aspettato altri 10-15 minuti. C'era un problema sotto nel mio palazzo, stava prendendo fuoco tutto, un albero attaccato al palazzo proprio prendeva fuoco. Lei tenga presente che all'una meno 10 ho chiamato i vigili, nessuno mi ha risposto, i vigili sono arrivati alle 2:30, aveva già preso fuoco tutto ed è arrivata anche la Protezione Civile. Quindi al di là dei vigili che hanno 10.000 chiamate, ma è proprio il numero unico che non funziona. Antonio, perdonami, non mi faccia dire questa cosa. No, voglio solo sapere in che periodo, perché mi è sfuggito. Guardi, glielo dico subito, prima che io andavo in ferie, era prima del 20 di giugno, io sono partito proprio il 20 giugno a sera, quindi adesso mi ricordo circa. Esattamente. Parliamo di Roma Sud, Roma Eur, circoscrizione 9, queste cose così. Io le voglio dire questo, ho fatto fare a mia moglie, perché sa, se lei fa il 115, questo dice, fa sempre sto numerito, ha fatto il 112, ma neanche, quindi se io avessi avuto un problema, chissà quando mi avrebbero diciamo dato una risposta. Quindi mi dispiace che poi si venga a dire che qui abbiamo tre squilli a Milano un minuto. No, qui abbiamo un problema. Io la ringrazio che lei stamattina ha messo un focus su questo problema, ma vediamo di risolverlo, perché se non abbiamo il poliziotto di quartiere, se non abbiamo le volanti che girano per Roma, ma se facciamo una telefonata e nessuno ti risponde, veramente siamo da soli. Antonio, poi se devi pure trovare il pronto soccorso, addio. Sei stato chiarissimo, Antonio, e su questo, siccome poi Carlo Rosa ci deve salutare, referente appunto per il 112, cosa risponde? Nel senso, qualcosa evidentemente va migliorato in questo numero? Assolutamente sì. In particolare nei mesi in cui ci sono, come dicevo prima, le centinaia di chiamate per incendi, do solo un dato, ma non per sminuire, siamo arrivati a ricevere 1200 chiamate in un'ora di segnalazione di incendi. È ovvio che sono numeri, come dire, che fanno crollare qualsiasi tentativo di organizzazione. Tuttavia non ci spaventiamo, come accennava lei, ci siamo visti al Viminale con i responsabili di questo servizio, che sono i dirigenti del Ministero dell'Interno, e stiamo approntando, d'accordo con i Vigili del Fuoco, una nuova organizzazione che ci consenta di evadere rapidamente le centinaia e centinaia, ripeto, migliaia di chiamate che in questi mesi l'ascoltatore faceva riferimento a fine giugno. Lei consideri che, come in altre situazioni di cronaca raccontate sempre, noi dall'inizio di giugno siamo a metà del terzo mese di una crisi climatica per che ha incendi. Dato luogo alla più grande stagione di incendi che abbiamo mai visto. Forse solo il clima, diciamo, ci sono anche molti piromani in giro. Comunque, Rosa, certo, quindi noi stiamo, ripeto, migliorando, volevo solo farlo capire il meccanismo. Se arrivano migliaia di chiamate per i Vigili del Fuoco, che noi prendiamo, le riversiamo sulla centrale del comando, che non riesce a smaltirle, questo alla fine è come un'onda di ritorno, ci torna indietro e ci rallenta. È urgente fare qualcosa. Maurizio, Carlo Rosa, Maurizio, poi la lascio andare. Scrive al 349-238-6666, mentre ricordo per le ascoltatrici e ascoltatori il numero verde 800-24-0024. Dice: il fatto è che anche in queste organizzazioni, c'è 112-118, ci sono più figure apicali che non operatori sul campo. Le risulta? Allora, le dico per quanto riguarda noi abbiamo 84 operatori in servizio. Nel Lazio o a Roma? Nella CUR di Roma, perché per le altre province del Lazio dobbiamo aprire la seconda centrale, che non è ancora aperta, e abbiamo in tutto 4 persone, cioè oltre gli 84 operatori che stanno materialmente a rispondere al telefono, ci sono 4 persone che sono i dirigenti, gli impiegati, i funzionari che fanno tutto il resto del lavoro, che puoi immaginare ruota attorno a 3 milioni la solita di mancanza di risorse l'anno. Quindi è inutile loro mettere il numero unico se poi. Però se devo rispondere devo dire non è vero che c'è un eccesso in questo di applicati. Senso diciamo, assolutamente no, ci sono oltre noi, è quasi tutto basato sui nostri operatori, su chi risponde al telefono, il resto è ridotto davvero al minimo. Carlo Rosa, io la ringrazio e veramente auspichiamo tutti e per tutti che questo servizio così importante, il 112, appunto nato per semplificare, per fare in modo che in tutta Europa ci sia un numero unico da chiamare per le emergenze, sia urgentemente migliorato, altrimenti tutto questo sforzo sarebbe inutile. Grazie, buon lavoro, buona estate Carlo Rosa. Francesco da Roma, l'800-24-0024. Francesco, sì, a te la parola. Buongiorno. Buongiorno. Io ho chiamato perché volevo riferirmi agli aspetti della sanità durante il mese di agosto, ma non solo, perché io sono un medico e lavoro in un ospedale romano, un importante ospedale romano. È vero che spesso e volentieri i pazienti si trovano in difficoltà e devono rivolgersi in pronto soccorso, e spesso e volentieri devono rivolgersi in pronto soccorso di terzo livello, ma questo non so se è effettivamente dovuto alla mancanza di risorse o al mal utilizzo delle risorse presenti. voglio dire che se noi andiamo a vedere il numero di medici sul territorio e il numero di medici negli ospedali di primo, secondo livello, forse non sono poi così pochi, forse però funziona che i primi livelli fanno da passacarte e quindi non gestiscono il paziente, ma lo mandano direttamente al terzo livello. E quindi il paziente si trova a dover fare l'accesso. Scusa, Francesco, quindi come primo livello, terzo livello, ripeti che cosa intendi? Il primo livello, la sanità è ovviamente organizzata in livelli, sono predisposti per gestire livelli superiori di patologia, progressivamente superiori di patologia. Quindi teoricamente una persona che si sente male dovrebbe andare dal proprio medico di base, il quale dovrebbe iniziare a gestire la patologia, e se non in grado, se troppo complicato, passare lo manda, lo indirizza da qualche specialista. Sì. Nel momento in cui il primo livello, il medico di base o l'ospedale periferico non gestisce più nulla o quasi nulla, ma di default lo manda in pronto soccorso, è chiaro che si concentra tutto lì, e quindi dice, non è mancanza di persone, ma di gestione, di coordinazione, di miglioramento della gestione delle risorse. Francesco, chiarissimo, siccome abbiamo ancora un minuto in tutto, io darei proprio 30 secondi a Carlo Palermo, Elio Rosati e Laura Santoro per dire, insomma, per fare una chiosa su questo argomento, poi ci dobbiamo lasciare. Carlo Palermo, dei medici, ha sentito il suo collega? Sì, certamente. L'organizzazione sanitaria deve essere sviluppata a rete e i livelli periferici sono fondamentali per il funzionamento dei livelli più alti, dei livelli di secondo livello e terzo livello, come richiamava il collega. Sì. E sono fondamentali perché altrimenti, se non funzionano, se non hanno adeguata tecnologia, se non hanno adeguato personale, evidentemente il rischio che tutto venga ribaltato sul secondo, sul terzo livello è grandissimo. Questa organizzazione è da presidiare e richiede anche in questo caso investimenti, e altrimenti il rischio della... È chiaro, è sempre anche una questione di investimenti e di miglior gestione. Carlo Palermo, la devo salutare. Laura Santoro, sintetica. Allora, sintetica vuol dire che ci sono dei problemi, chiaramente, come abbiamo detto, di blocco del turnover, che va sbloccato assolutamente, non con le parole ma con i fatti. E questo è chiaro. E assolutamente, perché lo stanno annunciando da parecchio, ma non stanno facendo assolutamente niente. E per dire, stabilizzare i precari non serve a niente, perché in teoria non lo risolve il problema, perché i precari sono già, io sono contenta per loro, ma non serve, perché i precari sono già strutturati, per cui di fatto fanno già parte della pianta organica. Servono nuove risorse, insomma, secondo lei. Assolutamente. Santoro. Poi no, le volevo pure dire un'altra cosa. Bravissima. Il MEF che avete detto non sta funzionando e sta facendo acqua da tutte le parti. Il 112. No, il MEF è la questione degli acquisti che stanno facendo per risparmiare, perché sta facendo acqua, perché non viene fatti gli acquisti con come si dovrebbero, valutando le merci. Quindi anche in questo caso da raddrizzare il tiro. Santoro, mi perdoni, la ringrazio, la saluto. Elio Rosati, abbiamo proprio 20 secondi, dopodiché devo chiudere. Insieme con una battuta, sì. La salute non può andare in meglio, quindi per favore organizziamo seriamente questi servizi, che devono funzionare 24 ore al giorno per 12 mesi l'anno, perché non è che agosto sia un mese particolare, altrimenti qui bisogna veramente difendere tutto e metterci in mano a chissà che cosa. Grazie. Quindi Rosati, pretendo giustamente attenzione. Grazie Rosati, grazie a tutti. Su questo argomento cambiamo tema. Lo sai perché la gente si arrovella e dice che la vita non è bella? Perché gli tocca de campà de corsa, è stretta in una morsa, non c'ha più il tempo per la pennichella, ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno. Amanti della pennichella, sappiate che una nuova ricerca conferma i benefici per la salute derivanti dal pisolino, a patto però che non superi i 40 minuti, perché il riposino perfetto dovrebbe durare 20 minuti. Lo studio dell'American College of Cardiology, però, noi la conferma il decalogo del buon pisolino ce lo facciamo dare da Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Dottor Ferini Strambi. Sì, buongiorno, è vero, non bisogna fare una pennichella più lunga di 20-30 minuti. Chi ha la possibilità di farlo fa molto bene a farlo, perché si risponde a un'esigenza fisiologica del nostro organismo. Ma non è solo quello l'aspetto importante, è che se si ha questa interruzione nel primissimo pomeriggio, questo porta anche dei vantaggi per il nostro apparato cardiocircolatorio, perché ad esempio in quei 20-30 minuti riusciamo a rallentare le funzioni del nostro apparato cardiocircolatorio, quindi ci mettiamo in una condizione di rilassamento, di stand-by, che è molto importante. Questo però non deve superare, appunto, diceva, 30 minuti circa, perché che cosa si può rischiare? Nulla di grave. Il problema, perché se si, questa è un'esperienza che possiamo fare tutti noi, se dormiamo più di 30-40 minuti ci si rimbambisce un po', andare... è vero? Esattamente, perché andiamo nel sonno profondo e quando poi ci dobbiamo diciamo così risvegliare, ci sentiamo addirittura confusi, strani, diciamo di malumore, proprio perché si è entrati in una fase di sonno profondo che chiaramente poi richiede più tempo per poterci riattivare, quindi bastano soltanto 20-30 minuti. Abbiamo 15 secondi, subito dopo mangiato va bene comunque o ci si appesantisce? No, va bene anche subito dopo mangiato, anche perché, ripeto, si tratta veramente di pochi minuti, chiaramente non la dormita di due ore. Questo sicuramente non fa bene al nostro organismo, perché va contro un po' quella che è la fisiologia. Grazie dottor Luigi Ferini Strambi, sintetico, preciso, esauriente. Grazie, grazie professore. Grazie a voi. E buona pennichella a lei se la fa. Voi non al momento, magari oggi pomeriggio, adesso, perché continuiamo tra poco dopo il GR. 800 24 0024, appuntamento tra poco per parlare di molti altri temi. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Ma cos'è quest'estate? Ma cos'è, ce lo stiamo chiedendo, affrontando vari temi di giorno in giorno, ultima puntata di questa settimana, perché poi naturalmente ci risentiamo lunedì. Roberto Giordano sempre con voi, abbiamo parlato lungamente di sanità, della sanità in agosto, con tutti i disguidi che abbiamo approfondito. Ci sono ancora delle vostre telefonate su questo argomento all'800 24 0024, numero verde, potete fare con molta libertà, è un numero gratuito e anche, ripeto sempre, ecologico, così evitate di disperdere pensieri ed energie in altri rivoli. Concentratevi fino alle 10 qui su Ma cos'è quest'estate. Quindi ancora vorrei sentire due telefonate su questo tema e poi cambiamo argomenti, perché tra poco parliamo, pensate, di un software, questa notizia viene dalla Gran Bretagna, per controllare la veridicità delle dichiarazioni dei politici. Non so come sarà possibile, ma tra poco ne parliamo. E poi anche del decalogo invece per partire sicuri, visto che sta iniziando l'esodo estivo, quindi a prova di imprevisti. 349-238-6666 invece il numero per messaggio WhatsApp, dove leggo questo messaggio di Simona, che scrive sempre relativamente al tema di poco fa. Sono un'infermiera di pronto soccorso, un ospedale di Bergamo Est. Le nostre ferie estive vanno da maggio a ottobre, pianificate già da febbraio. Se non ci sono malattie o infortuni, siamo coperti, ma spesso non è così e siamo costretti a sospesi riposi e turni prolungati. Per me, con quattro figli e senza part-time, è durissimo. Possiamo immaginare che comunque è un settore molto complesso, un lavoro molto pesante. D'altronde, se si sceglie di farlo, per carità, molte cose si possono migliorare. Qualcuno chiede perché proprio solo da maggio a ottobre previste le ferie, non anche in altri periodi. In effetti, diciamo, anche per le altre categorie ci sono un po' spalmate durante tutto l'anno. Comunque, Francesca da Pisa, all'800 24 0024. Francesca? Sì, io volevo segnalare, buongiorno, sì. Ho una sorella medico nell'USL di Lucca, è chirurgo ortopedico, e mia sorella da almeno 15 anni ha oltre 300 giorni di ferie. Caspita. Che non riesce mai a fare. Mi chiedo come faccia ad andare avanti, è sempre molto stanca, evidentemente, ha una famiglia con dei figli. Abbiamo una mamma di 90 anni che io riesco a curare solo in vacanza e francamente mi sembra che le condizioni di lavoro, se fosse in un settore privato, avere tante ferie così e non riuscire a farle, l'obbligherebbero. Ci sarebbero sicuramente sindacati, ispezione del lavoro, che darebbero dei problemi al datore di lavoro. Beh, ma a maggior ragione la pubblica amministrazione, no? Evidentemente nessuno fa niente e sembra che sia una cosa normale, perché, ripeto, sono molti molti anni che la situazione si protrae, non solo per mia sorella, ma mia sorella mi diceva anche per molti dei suoi colleghi. Io o sono talmente pochi un situazione. Sì, no, ho capito Francesca, sì, è una situazione diciamo improponibile chiaramente, se ha 300 giorni di ferie, immaginiamo e nessuno riesce a correggere una situazione del genere. Per me evidentemente sono sotto organico da molti molti anni. Chiaramente. Ma nessuno fa niente. Si parlava prima del blocco del turnover, Francesca. No, no, chiarissima la tua esperienza. Dici, il giorno che magari va in tilt tua sorella come altri, insomma, certamente non è una cosa positiva per l'ospedale, ma soprattutto poi per i pazienti, quindi tirare troppo la corda. Mauro da Roma. Buongiorno. Al numero verde. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Bene, non devo togliere il Bluetooth. Mi senti te? Mauro, sì, Eccomi, un'altra cosa, sì. Buongiorno, io volevo intervenire sul 112, tra l'altro si ricollega anche alla nuova app che ho sentito sui politici, la quale, tra parentesi, spero non segnali la cosa con segnale acustico troppo alto, perché Roma è già piena di inquinamento acustico. Stai parlando di un'applicazione? Di un'applicazione per i smartphone del 112? Che dovrebbe segnalare, sì, infatti io pensavo, mi è capitato 2 settimane fa a Roma sulla Iostienza, peraltro una strada con un altissimo tasso di mortalità, e di vedere un incendio lato strada, molto abbastanza, solo sterpaglia, però il fumo invadeva la carreggiata, quindi rappresentava sicuramente un pericolo. Ho provato dal punto dell'incendio a chiamare e sono arrivato fino a Piazza Enrico Fermi prima che potessero rispondere, quindi stiamo parlando di circa 20 minuti e questo non credo che sia il tempo medio che hanno segnalato, invece non so chi ha parlato prima. Scusi il fiatone, sto montando un portabici sulla macchina. Tu addirittura hai così voglia di intervenire, Mauro, questo mi fa estremamente piacere. Mentre monti Trovo assurdo, io chiamo 112, aspetto 20 minuti, non è possibile con le possibilità che abbiamo oggi, sarebbe così facile. Un'app su uno smartphone che peraltro segnala immediatamente anche il segnalatore, perché deve usare il telefonino. Che segnala immediatamente, oltretutto può valutare le segnalazioni immediatamente, perché se arrivano 5 segnalazioni sono sicuramente veritiere, se arrivano 5 segnalazioni da 5 smartphone nella stessa zona di un incendio. Quindi non capisco perché dobbiamo ancora telefonare a un operatore per segnalare un incendio. Dici, nonostante i progressi della tecnologia, eccetera, anche perché ti informo, Mauro, se non lo sai, lo dico a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, che tra poco dovrebbe entrare in vigore la e-call, cioè la chiamata di emergenza automatica obbligatoria sulle automobili dal prossimo anno, che è un sistema che chiama in automatico la centrale in caso di emergenza, cioè di incidente. Quindi diciamo, con la tecnologia sembra che si vada sempre più verso un futuro, no? Estremamente efficiente, però bisogna prima sistemare certe cose e poi passare. Certo, magari ci aggiungessero anche il segnalatore immediato di incendio, sicuramente ci sarà anche un GPS che segnala immediatamente dalla macchina dove sta, tramite segnalatore GPS, un incendio. Non c'è bisogno di dire c'è un incendio, basta che l'importante, il 115 deve solo sapere che c'è un incendio e dove sta, punto. Quindi ci vuole così poco, e invece qui siamo ancora con l'operatore che deve rispondere dopo 20 minuti. Anche a me hanno detto aspetti le passe vigili del fuoco, ma allora a che serve? Mauro, senti, adesso tu hai finito di montare il portabici sull'auto? No, ancora no. Stai partendo anche tu per l'esodo estivo? Sì, no, domani vado a un vertice da amici e porto la bici della bambina, quindi sto cercando di montare questo portabici. Ho capito. Fatti aiutare da qualcuno, a volte non è così semplice, mi raccomando, è facile. No, è facile. Perché tra l'altro telefonavi nel frattempo, quindi non è semplicissimo. Mauro, sì, allora... Mentre montavo sentivo io sono un vostro grande ascoltatore, sentivo la e fai molto radio, bene. Mi fa accompagnia mentre... Fai molto bene, Mauro. Tra l'altro, se viaggerai magari anche nei prossimi giorni, tra poco parleremo anche del decalogo per viaggiare in sicurezza. Quindi monta bene questo, perché portabici a volte possono cadere, molto pericoloso. Quindi fallo con attenzione. Va bene, Mauro, ti saluto. Grazie Mauro. Ciao. You know, I've been hearing more and more about a thing called fake news. Fake news. I've seen people destroyed, and I think it's very unfair. Some of the media outlets that I deal with the fake news. Fake news. I think it's a disgrace. Quante volte negli ultimi tempi avrete sentito parlare di fake news, cioè delle bufale, delle notizie infondate, no? Qui c'era anche una specie di montaggio, di gioco con la voce, per esempio, anche di Trump, perché molto è stato accusato recentemente, insomma, di dire fake news, ma non soltanto lui. Allora adesso dalla Gran Bretagna arriva questa notizia a proposito di tecnologia. I giornalisti britannici potranno avvalersi di un software, di un programma, quindi per i computer, in grado di smascherare queste fake news. Il programma è stato messo a punto da Full Fact, un'organizzazione dedicata al fact-checking delle notizie, cioè alla verifica della veridicità delle notizie, che consentirà appunto di verificare in tempo reale la fondatezza delle dichiarazioni rilasciate dai politici in TV, sulla stampa e in Parlamento. Stando al Guardian, il quotidiano inglese che ha testato questo software, a partire da ottobre sarà diffusa una prima versione del sistema, quindi a breve, chiamata dai suoi creatori il Bullshit Detector, cioè rivelatore di cavolate. La fase sperimentale riguarderà non solo il Regno Unito, ma anche il Sud America e l'Africa. E ne parliamo con Paolo Attivissimo, che è giornalista e consulente informatico, studioso della disinformazione nei media. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Sarebbe utilissimo anche in Italia, non per carità, non per fare riferimenti. Assolutamente, però, sì. Però ti sembra una cosa possibile, fattibile? Come funziona una cosa di questo genere? Allora, il primo ostacolo è che questo software dipende dalla lingua specifica, quindi per la lingua inglese è già pronto, bisogna farne la versione nazionalizzata per le varie lingue. In pratica questo software analizza le frasi dette da una persona, in un articolo, da un politico, e poi cerca, con queste parole chiave trovate all'interno di quello che è stato detto, cerca se è già stata fatta un'indagine di verifica da un giornalista, da un esperto del settore, per dire vero, falso, dove possibile. Quindi è un ausilio, non è un sostituto del giornalista. Anche perché, Paolo, se dicesse una cavolata nuova, quindi che non è stata verificata prima, e come si fa a capire se ha detto la verità oppure no quel politico? Esatto. Quindi è semplicemente un supporto in più. Questa indagine è già stata fatta, possiamo già confermare o smentire in tempo reale. Già così sarebbe uno strumento utilissimo. Io vedo nel mio settore, per esempio, quante volte circolano le fotografie false quando ci sono gli attentati o altri drammi che fanno molta notizia. Basterebbe avere un filtro che dice: guarda, questa foto l'ho già vista, è già vecchia, e si frenerebbe subito la sua circolazione. Quindi si può, è una specie di antivirus per le notizie. Diciamo, per le fotografie, come dici tu, per i video, sì, è già più facile, sì, no? Perché sono cose che sono, esatto, state riproposte, sono quasi più degli oggetti che non dei concetti, delle frasi, delle cose, quindi è più possibile fare il filtro. Però sembra che, insomma, mi pare che ci abbiano investito anche parecchio. Leggevo di finanziamenti, adesso non mi ricordo, da $500,000 di finanziamenti da fondazioni di beneficenza sostenute da 2 miliardari, sì, in questo modo si è sviluppato questo software. Sono l'imprenditore George Soros, conosciamo, il fondatore di eBay, Pierre Morad Omidvar. Una prima versione del sistema, leggo, usa un database con migliaia di controlli di veridicità fatti manualmente, ma le versioni future saranno in grado di accedere automaticamente a dati ufficiali. Quindi si hanno buone speranze, tu dici, di vigilare, di monitorare, anche un monito che c'è per i politici a dire le cose serie, fondate. Esatto, oppure a imparare a mentire più elegantemente. Ecco, non si sa mai. Quindi ad affinarsi da questo punto di vista. Esatto, però almeno le cose di base, come per dire, qualcuno dichiara che la popolazione italiana è precipitata del 30% a causa di una malattia, allora salta fuori subito il controllo, si va a prendere la fonte di riferimento, che può essere l'Istat, le pubblicazioni demografiche, e si dice vero, falso. L'importante è che tutto questo processo sia fatto il più possibile in modo trasparente, cioè vengono spiegate le fonti utilizzate, il metodo di lavoro adoperato per ottenere il risultato, il verdetto, e che questo rimanga un ausilio, cioè la testa dobbiamo mettercela lo stesso. Chiaro, ma per esempio sarebbe utilissimo, sai, a parte appunto le promesse dei politici, campagna elettorale, eccetera, eccetera, ma anche, Paolo, stavo pensando ai dati economici, no? Che magari di giorno in giorno variano, uno lo dà l'Istat, l'altro lo dà un'altra agenzia un'agenzia, insomma, economica o vengono da, insomma, da altre fonti, e sembra spesso, per esempio anche negli ultimi mesi di quest'anno, di variazioni che sembravano costanti, no? L'economia che migliora, invece no, invece sì, diventava un po' complicato. Forse anche su una cosa di questo tipo, dove ci sono i numeri, per esempio, potrebbe essere più facile? Sì, infatti, dove ci sono dei dati precisi, dei riferimenti precisi, è più facile intervenire, soprattutto un po' come succede con lo spam nella nostra posta. Capita molto spesso che ci siano delle campagne disinformative fatte con lo stampino, cioè usando sempre le stesse frasi. Se il software riconosce l'uso di quella frase, capisce che si tratta di quella campagna disinformativa e quindi può dare un aiuto a chi vuole saperne di più. All'inizio questo strumento è predisposto e pensato per i giornalisti, perché ancora è embrionale. Cioè che i giornalisti lo possano utilizzare loro. Esatto. Anche perché il giornalista ancora oggi è quello che finisce molto spesso per essere il più principale responsabile della diffusione delle notizie giuste o sbagliate. Per cui se si riesce a intervenire alla fonte... Dici involontariamente, stai dicendo involontariamente o volontariamente? In entrambi i casi può succedere involontariamente per un malinteso, per un errore di copia e incolla, ma può anche succedere purtroppo in alcuni casi anche volontariamente. E infatti leggevo, già qualcuno se la prende con i giornalisti, Ulisse che dice: se il finanziatore, anzi no, Ulisse è quello dopo, dice un altro ascoltatore, e per i giornalisti non c'è un'app simile, quindi non tanto per verificare le bufale dei politici ma dei giornalisti, c'è già qualcuno che ci sta pensando. È uno strumento universale, quindi in teoria è pensato per i giornalisti come in modo che lo usino loro. Ovviamente dipende dalla bontà, dalla qualità e dalla professionalità del giornalista e dalla sua etica. Quindi come utilizzatori ma anche come oggetto di verifica loro stessi, la intendeva questo ascoltatore. Questo è già più difficile, non credo che sia lo scopo di questo software. Non si può valutare la persona con uno strumento del genere, anche perché la persona oggi può citare una notizia corretta, domani ne può citare una sbagliata. È chiaro che magari si possono dare delle pagelle tipo TripAdvisor in base a quanti articoli corretti o sbagliati. Ulisse scrive al 349-238-6666, dice: se il finanziatore è Soros, allora è sicuramente per una truffa a danno di molti. C'è qualcuno che è molto pessimista su questo. Ecco, infatti è anche accusa prevedibile, giustamente si dice, ma chi è che paga queste cose? È per questo che è importante che tutto il procedimento sia trasparente e verificabile anche da terzi. Non importa da dove arrivano i soldi, l'importante è che il metodo utilizzato sia valido. Quindi 349-238-6666 per messaggi WhatsApp, e poi per le telefonate vi ricordo il numero verde 800-24-0024. Paolo attivissimo, scusa il gioco di parole, sei sempre attivissimo, sempre sul pezzo, sulle cose. Grazie Paolo, buona estate. Ciao Paolo. Altrettanto a voi. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità. È una gran comodità l'auto, anche se ovviamente esistono mille altri mezzi di trasporto, però insomma, per andare in vacanza lungo le autostrade italiane sta per iniziare in effetti l'esodo. Siamo a venerdì, adesso c'è il fine settimana, poi siamo praticamente a Ferragosto, però bisogna, lo sa, partire in sicurezza. Si parla da anni delle partenze intelligenti, quelle riguardano più gli orari, no? Per non rischiare di rimanere imbottigliati nelle code, però ci sono poi una serie di regole anche proprio per la sicurezza in generale. Allora su questo coinvolgo subito Damiano Pica, che è vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Dottor Pica, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siccome gli ascoltatori, come lei può immaginare, sono milioni e milioni in questo momento, che cosa possiamo dir loro? Quali sono, qual è il decalogo, le regole per un viaggio piacevole senza imprevisti? Sì, certo. Proviamo un attimino a entrare nell'ottica di pensiero che la vacanza inizia già dal viaggio. Certo. E quindi allora non dobbiamo avere fretta di arrivare, ma dobbiamo assicurarci pertanto un viaggio rilassante e sicuro. A tal fine quindi i consigli che la Polizia Stradale dà a tutti gli utenti riguardano sia la fase antecedente al viaggio, che ovviamente quella in cui già il viaggio è iniziato. E allora, prima di mettersi in viaggio, e quindi prima di mettersi alla guida di un veicolo, occorre senza dubbio accertarsi dell'efficienza dello stesso. E quindi in particolar modo dobbiamo controllare la pressione e lo stato di usura degli pneumatici, l'efficienza del sistema frenante, il funzionamento dei fari e dei dispositivi di segnalazione e ovviamente la regolarità dei documenti di guida. Sempre prima di intraprendere il viaggio ricordiamoci anche di prestare attenzione a che i bagagli e le attrezzature per il tempo libero non diminuiscono la visibilità o non impediscono la libertà di movimento del conducente o ancor peggio compromettano la stabilità del veicolo. Sempre prima di iniziare il viaggio mi raccomando di non bere alcolici ed evitare i pasti abbondanti, soprattutto quando appunto l'orario di partenza è nelle ore più calde della giornata. Perché danno sonnolenza, ma poi uno comincia a avere la biocco. Pericolosissimo, pericolosissimo, sia appunto nella fase successiva al pranzo che ovviamente quella serale notturna. E prima sempre di mettersi in viaggio, fondamentale informarsi sulle condizioni del meteo e del traffico attese e pianificare in anticipo il percorso. Un altro consiglio è quello sempre di tenere in auto acqua a sufficienza per tutti i passeggeri. Mm. Ecco, e quando siamo in procinto quindi di accendere il veicolo, allacciamoci bene le cinture di sicurezza, ovviamente anche quelle posteriori, assicuriamoci che eventuali seggiolini per i bambini siano correttamente fissati e per chi viaggia in moto, mi raccomando, indossiamo sempre un casco omologato. Ora il viaggio è iniziato, la nostra vacanza è iniziata e quindi dobbiamo in qualche modo, come dicevo all'inizio, assicurarci un viaggio, una vacanza rilassante già durante il viaggio e quindi evitiamo sicuramente ogni distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall'utilizzo illegale del cellulare, perché quando si è alla guida è importante mai utilizzare il cellulare. Adeguiamo ovviamente la velocità allo stato del traffico e del meteo, occupiamo sempre la corsia più libera a destra in modo tale che lasciamo spazio a chi debba superarci, manteniamo la distanza di sicurezza e anche qui, riprendendo proprio il nostro incipit, facciamo delle soste frequenti, anche 10-15 minuti in meno, la raccomandazione è di farle approssimativamente ogni 2 ore di guida. Poi è ovvio che in caso di tempo meteorologico avverso, in caso di traffico intenso, è normale che il corpo si stanca prima e allora possiamo anche anticipare queste soste, farle magari ogni ora e mezza, poi dipende evidentemente da quanto è lontana la nostra meta. Ancora di grande utilità per conoscere in tempo reale la situazione del traffico o le criticità lungo il percorso sono i cosiddetti pannelli a messaggio variabile, ossia quei pannelli che troviamo lungo la sede, su una carreggiata autostradale, che ci informano in tempo reale di eventuali criticità o dei tempi di percorrenza delle tratte immediatamente prossime alla nostra posizione. Evidentemente poi di grande utilità sono anche le emittenti radiofoniche che danno informazioni sul traffico in tempo reale. E per ultimo, qualora dovessimo essere protagonisti di un incidente, ecco qui, l'importante è ricordarsi che quando l'incidente è senza feriti e soprattutto quando i veicoli sono ancora in qualche modo marcianti, dobbiamo, per obbligo del codice della strada, liberare la carreggiata, quindi possibilmente ci spostiamo in un'area di parcheggio o ancora meglio in un'area di sosta, qualora la condizione del veicolo ce lo consentano. Quando questo non sia possibile, spostiamoci in emergenza, lasciamo libero il transito, quindi i veicoli che sopraggiungono, indossiamo il giubbetto da rifrangente e cerchiamo di prendere qualche riferimento da dare poi agli organi di soccorso, quindi polizia stradale, soccorso meccanico o eventualmente dovesse esserci l'occorrenza soccorso sanitario. Ma ricordiamoci che ogni 100 metri noi in carreggiata stradale troviamo una cartellonistica lungo il guardrail della corsia di sorpasso, quindi la corsia più estrema a nostra sinistra, in cui ci indica esattamente qual è l'ettometrica precisa. Ogni chilometro noi abbiamo ovviamente la posizione corretta della nomenclatura dell'autostrada insieme poi alla chilometrica, ma anche ogni cavalcavia è numerato, quindi noi abbiamo sicuramente questi 3 punti di riferimento per conoscere esattamente in maniera corretta la nostra posizione da comunicare poi agli organi di soccorso oppure alle forze di polizia. Davvero Picca, lei è stato estremamente esauriente, devo dire, e già ben predisposto, perché è rilassante nel suo modo di elencare tutte queste regole da osservare durante la guida. Le volevo chiedere, per chiamare per esempio la polizia stradale, lei ha citato in caso di qualche guasto, di incidente eccetera, che numero fare per esempio? E allora ovviamente noi adesso in tutta Italia abbiamo il numero unico europeo, il 112. In alcune province d'Italia questo numero 112 non è ancora attivo, quindi sicuramente possiamo continuare a fare il 113 e riuscire a metterci in contatto tranquillamente con la polizia stradale. E mi dica una cosa, questa regola delle cinture posteriori, no? Cinture di sicurezza posteriori, sì. Direi che non le mette praticamente nessuno. È una regola però fissata, sancita dal codice della strada già dall'inizio, quando il codice della strada è stato emanato, e la polizia stradale sta facendo veramente delle campagne di sensibilizzazione dal lato e anche ovviamente di contrasto ai fenomeni illeciti dall'altro, quindi stiamo facendo veramente molta attenzione a questa, a sensibilizzare l'utenza ad utilizzare le cinture di sicurezza anche posteriori, non sono un optional ma sono un elemento di sicurezza che ci consente veramente di stare tranquilli e sereni durante la nostra vacanza. E lei ci ha dato effettivamente una serie di indicazioni utilissime, anche la serenità per partire con sicurezza. Complimenti Damiano Pica, davvero. Ricordo, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Lei fa le vacanze, Pica? Adesso io confido nella generosità dei miei superiori, quindi spero che dopo Ferragosto qualche giorno riesco ad ottenerlo. E le darò qualche referenza se lei ritiene opportuno, farò sapere ai suoi superiori, che è stato veramente utilissimo, bravissimo. Grazie. E ovviamente poi le regole le sa, poi io le ripeterò per gli ascoltatori che magari avessero acceso da poco. Grazie Damiano Pica. Grazie, buon viaggio a tutti. Grazie, buon viaggio. E a proposito di buon viaggio, allora vi ricordo, ho preso qualche appunto con il vicequestore che stava elencando tutte queste regole, l'efficienza, controllare l'efficienza dell'auto prima di partire, quindi le gomme, i fari, il sistema frenante. Lo so che poi uno parte sempre all'ultimo, si parte di corsa, mille organizzazioni, mille cose da gestire, però ecco, almeno le gomme, i freni, poi se si riuscisse è meglio. Poi guardate che i fari non sia magari uno cieco, no? Ci si accorge magari quando ci si specchia in una vetrina con la macchina, per caso si vede che un faro magari è spento. Poi la diceva per esempio che se si viaggia con la moto ci vuole assolutamente il casco omologato. Io ho visto ultimamente anche in vacanza per esempio alcuni che hanno l'elmetto tipo Sturmtruppen, questo non è assolutamente omologato, ricordatevelo. E poi se ci si ferma per caso per un'emergenza diciamo nella collocazione giusta dove ci sono le piazzole, oppure nella corsia d'emergenza che appunto sa va a sandir, lo dice il nome stesso, con il giubbino catarifrangente, quello giallo per farsi vedere, poi adeguare la velocità naturalmente alle condizioni del meteo, evitare le distrazioni, non usare il cellulare. Vedo persone che sono capaci di cucinare un arrosto mentre guidano, non è il caso, insomma bisogna essere prudenti per poi non tanto per se stessi, soprattutto per gli altri. Direi che a questo punto possiamo prenderci un'altra breve pausa. Per le vostre telefonate c'è sempre il numero verde 800 24 0024 oppure il numero per messaggi WhatsApp che è il 349 238 6666. Avrei voglia di un giallo, anzi, di un thriller da paura. Io di una commedia, qualcosa di leggero, che faccia ridere. Io vorrei immergermi in un romanzo introspettivo e disturbante. Sono Alessandra Tedesco, il cacciatore di libri, e quest'estate vi farò compagnia con i consigli di lettura. Vi aspetto ogni sabato alle 6.30 alle 22, la domenica alle 16.15 alle 20.45, dal lunedì al venerdì edizione Flash alle 13.10. Non avete preso appunti? Niente paura. Trovate tutto, compreso il podcast, su radio24.it. Ma cos'è quest'estate? Dove andate a guardare le stelle in queste sere? Ieri era il 10 agosto, notte di San Lorenzo, per tradizione da sempre la notte delle stelle cadenti, però in realtà dicono gli astronomi che il picco della caduta delle stelle ci sarà tra domani sera e dopodomani sera, quindi tra il 12 e il 13 agosto, col cielo che dà spettacolo. Perché per festeggiare questo evento varie associazioni astrofile hanno in programma serate dedicate all'osservazione. Voi per esempio dove andrete in queste sere, perché non era solo ieri, appunto il picco ci sarà nelle prossime sere, a guardare le stelle cadenti, a esprimere i vostri desideri col naso all'insù? 800 24 0024, fateci sognare anche con i vostri cieli locali. Intanto però su questo vorrei sentire Adrian Fartade, che è divulgatore scientifico e youtuber. Adrian, buongiorno. Buongiorno, piacere di essere qui. Il piacere reciproco, Adrian, naturalmente. Le stelle cadenti, intanto vogliamo capire che cosa sono le stelle cadenti. Non è un pezzo di stella che cade materialmente giù, no? Giusto? Per fortuna no, per fortuna no. Anche se sarebbe molto romantico, ma l'importante non esserci sotto, diciamo, perché avrebbero, esatto, certe dimensioni. Sì. No, beh, comunque considerate che quelle che vedete nel cielo sono meteore create da frammenti più piccoli, di solito di granelli di polvere. Quando andate in spiaggia quest'estate, guardate la sabbia, i granelli che cadono sono di quelle dimensioni più piccoli, i più grandi tendono a essere grandi magari come un'unghia. Cioè, quelli che noi vediamo luminosi, quelle cose che cadono luminose hanno quella dimensione? No. Sì, sì, sì, sono al massimo pochi centimetri in diametro, ed è perché il sistema solare è estremamente polveroso, è rimasta molta polvere da quando i pianeti si formavano. E nessuno l'ha spolverato, cosa... chiaramente, no, quindi sono passati no, parecchi... Esatto. Però non c'è andata male, perché questo ci offre uno spettacolo continuo di meteore. Queste in particolare vengono da frammenti di comete. Le comete passano vicino al Sole, quando arrivano qui, dato il contenuto di acqua, si sbriciolano e creano quella coda fantastica. Ma quella coda che vediamo nel cielo è piena delle comete, è piena di questi frammenti di polvere. Rimangono lì e poi la Terra, periodicamente nell'orbita, passa sempre attraverso queste code. E succede sempre nello stesso momento più o meno dell'anno, e può cambiare di anno in anno in base a quanta polvere riesce a prendere in pieno la Terra, e quindi da quello dipende la quantità di meteore che vediamo la sera. Adrian, ma noi, cioè gli astronomi, come fanno a prevedere appunto se quell'anno è più il 10 agosto o il 12 o il 13? In questo caso è il 12 e il 13, vero? Il picco, leggevo? Sì, dipende molto anche dalla posizione della Luna. Infatti quest'anno c'è una Luna bella forte, è iniziata la Luna piena questa all'inizio della settimana, per cui il problema principale è quello. Poi potreste comunque vedere decine di meteore all'ora, per cui se avete desideri comunque li finirete velocemente. Però sì, quest'anno ci saranno meno in base alla posizione della Luna, perché ne vedrete meno. Perché è troppo luminosa, esatto, la Luna in queste sere. Sì. Quindi insomma, bisogna prendersi appunti e una bella lista di desideri da esprimere, perché c'è, molto velocemente cadranno queste stelle, questa polvere di stelle. Quindi Stardust, è giusto dire polvere di stelle quando... Sì, sì, tra l'altro tutta questa polvere, esatto, queste meteore quando si sbriciolano arrivano in basso e la polvere rimane, e dato che rimane nell'atmosfera finisce per mischiarsi a tutto il resto della polvere. Ora, noi abbiamo nel naso dei piccoli peli che ci proteggono dal a far arrivare la polvere nei polmoni, sì, e quindi la prossima volta che trovate una caccola nel naso, una parte di quella è fatta anche di polvere, di meteore, di comete, di altre parti del sistema solare. Addirittura, cioè noi abbiamo delle caccole spaziali praticamente, anche romantiche, stellari, insomma. E questa cosa veramente è veramente una scoperta in questo momento. Scusi l'ignoranza, non immaginavo di avere questo nel naso, come hanno del resto tutti. Rimanga Adrian, mentre sento Luca Molinari, che è vicepresidente della società astronomica Giovanni Virgilio Schiaparelli. Ci sono volontari da più di 50 anni che organizzano attività di presentazione e osservazione delle stelle. Dove siete quest'anno, Molinari, a raccontare? Buongiorno intanto. Quest'anno, come gli altri anni, ci ritroviamo nel parco di Villa Teplitz, che è un bel parco comunale della città di Varese, quindi Lombardia, un prato dove appunto chi viene ad ascoltarci arriva con le coperte, si distende e può osservare il cielo comodamente. Iniziamo sempre la serata alle 21 con una presentazione del fenomeno, e poi mettiamo a disposizione tre telescopi per osservare magari qualche altra cosa. Ecco, per esempio in queste sere si vede bene Saturno. Ecco, la Luna invece il 12 sorgerà abbastanza tardi e prevediamo di completare però la serata alle 23. Ecco, quindi la Luna che potrebbe disturbare l'osservazione, diciamo un ospite che entrerebbe alla fine così della manifestazione. Ecco, quindi abbiamo tutti gli anni una grande partecipazione di persone. Ecco. Quindi voi aiutate un po' a capire che cosa succede nel cielo e a guidare, diciamo, a fare una visita guidata a queste stelle cadenti. Di quasi 60 anni dell'osservatorio astronomico Schiaparelli, dove settimanalmente riceviamo, purtroppo su prenotazione perché le richieste sono molte, decine di visitatori per l'osservazione del cielo notturno, che era un po' il sogno del fondatore dell'osservatorio, appunto, che era un autodidatta che amava l'astronomia, che anni fa appunto dal sud venne a Varese, si innamorò di questa montagna e riuscì a convincere ricchi mecenati a dare i soldi e i terreni per costruire questo osservatorio, che era un piccolo gioiello di proprietà del comune di Varese. E lì questa associazione, la Schiaparelli, appunto da anni svolge un'attività di divulgazione e ricezione di pubblico e scuole. C'è un ascoltatore, sì, Max da Vicenza, che scrive al 349-238-6666, ma potete anche telefonare al numero verde 800-24-0024 per raccontare dove andrete a vedere questa caduta di stelle. Dice Max, andremo nell'altopiano di Asiago con Asiago Guide a vedere le Perseidi nel cielo alpino, stelle cadenti che si chiamano anche Perseidi. E Adrian, Asiago com'è andare a vedere le stelle da quelle parti? È molto bello lì, perché più andate in un cielo che è in alto, lontano dalle luci della città, poco illuminato, no? Quindi in zone buie. Gli occhi hanno bisogno di almeno una mezz'ora per riuscire poi a vedere bene le stelle, quindi datevi un po' di tempo e attenti a usare lo schermo del cellulare, perché se guardate il cellulare poi tutta la luce di nuovo vi abbassa la visibilità. Almeno lì non usate il cellulare, no? Almeno quando si guarda per mezz'ora, le stelle. No. Che caspita. C'è Massimiliano da Pisa. Massimiliano, chi vuole raccontarci? Vuoi raccontarci? No. Massimiliano, si è già messo a guardare le stelle, è caduta alla linea più che la stella, insomma, in questo caso. E Matteo Soldi è responsabile della comunicazione dell'osservatorio astronomico Cadelmonte, nell'omonima località a Cecima, vicino Pavia. Soldi, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche voi quindi fate questa opera divulgativa di guida alle stelle? Assolutamente, come ogni anno abbiamo un festival, sono cinque giorni di attività, una è iniziata ieri sera con circa 200 visitatori che sono venuti, dai piccolini di 3 anni agli over 80, perché c'era questa signora di molto, molto anziana che però è stata spinta a venire su a vedere le stelle in maniera molto bella, una serata molto particolare. Se dovesse dare dei consigli a chi tra stasera, in particolare lo ricordiamo, 12 e 13 il picco delle stelle cadenti, volesse appunto andare i consigli per chi non può venire lì a guardare le stelle, le indicazioni per essere più consapevoli. Sicuramente spettacolo. Allontanarsi il più possibile dalle luci, come dicevano le altre persone prima di me, e quindi quello è il luogo sicuramente migliore, quindi allontanarsi dalle luci delle grandi città. E poi vabbè, bisognerebbe conoscere un pochettino la distribuzione delle costellazioni in cielo, però guardare, diciamo, indicativamente verso la costellazione di Cassiopea, che è quella bellissima W, e poi da lì più o meno sotto da quella zona c'è la zona radiante, come si dice, cioè da dove partono tutte queste bellissime stelle cadenti, e quindi quello è il luogo ideale per vedere. Però appunto vi consigliamo di magari appunto frequentare un osservatorio per ascoltare le nostre spiegazioni e così almeno imparare un pochettino a orientarsi in cielo. Quindi a parte le vostre, Matteo Soldi, Luca Molinari, ci sono vari osservatori in Italia, no? Ce ne sono molti, sì, ce ne sono parecchi, alcuni legati, diciamo, all'Istituto Nazionale di Astrofisica, altri invece legati a associazioni di astrofili che fanno un'opera enorme, diciamo, di divulgazione delle scienze astronomiche. E ci tengo a dire che, diciamo, lavorando in questo campo ormai da un bel po' di anni, l'interesse da parte delle persone, della popolazione, è veramente molto molto grande, a partire dai bambini, dalle primarie, quando vengono da noi in visita in osservatorio, che sono veramente affascinati dai pianeti, dalle stelle, eccetera, anche ai grandi. Quindi è una cosa sicuramente che appassiona, ed è bello che sul territorio ci siano veramente tanti piccoli presidi, piccoli, medi e grandi presidi, che possano, diciamo, rispondere a tante domande che le persone hanno. Per trovarli basta andare su internet e cercare l'associazione astrofile? Basta andare su internet, sì, per esempio per trovare noi basta scrivere Planetario Osservatorio Astronomico Cadelmonte, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo sito e quant'altro, per cui ci trovate facilmente. Ma in genere anche, per esempio, collegandosi all'Unione Astrofili Italiani, è possibile comunque avere un elenco delle principali diciamo, associazioni che fanno attività di divulgazione, e quindi in base al luogo in Italia nel quale ci si trova è possibile andare a trovare un osservatorio che fa divulgazione astronomica. Adrian Fartade, perché si chiamano anche Perseidi? Proprio per quello che dicevo prima del radiante, cioè del punto dal cielo da dove potete vederlo per via della costellazione di Perseo che è lì. E ogni meteore porta il nome della costellazione dove la trovate. Per esempio a ottobre potete vedere i pezzi della cometa di Halley, perché c'è una piccola pioggia di meteore chiamata Orionidi, che è nella costellazione di Orione. O poi a novembre ci sono le Leonidi, nella costellazione del Leone. Per cui se ora piove o avete altro da fare o mille altre cose, comunque durante l'anno ci sono altre piogge di meteore, magari non spettacolari come le Perseidi di quest'estate, però non sono carenchiero. Quindi ci saranno altre occasioni. Adrian, invece, quando si dice se vedi la stella che cade e vuoi esprimere il desiderio, non lo dire, non dire lì c'è una stella cadente, bisogna tenerlo per sé. Questa... Ma è buffo, perché in realtà desiderio come parola viene da sidereus, che i romani usavano per dire cielo, e la parola stessa veniva usata per dire quello che noi usiamo per dire esprime un desiderio. Quindi desiderio stesso è un l'atto di guardare il cielo, vedere una stella cadere e esprimere una cosa che vuoi che succeda. Quindi in questo caso diciamo che già il fatto di esprimere un desiderio è simbolico. E possibilmente tenerlo per sé. Quindi Adrian Fartade, intanto la ringrazio molto, auguro buone stelle a Molinari, a Soldi, a tutti quelli che andranno a vedere, anche grazie magari appunto alle associazioni astrofile le stelle, o se no per conto proprio. Adrian, grazie di questa rivelazione che anche nelle caccole del naso ci sono del polvere di stelle, questa cosa ci rende anche più orgogliosi, diciamo, dei contenuti. Grazie Adrian, buone stelle. Grazie a voi. È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente sarebbe da sentire ancora lungamente, ci fa già sognare in vista di queste stelle da guardare verso il cielo, però adesso ci fermiamo perché chi sta guidando lo deve fare con attenzione, quindi sono gli aggiornamenti stradali. Ma cos'è quest'estate? Sapete, ho sentito tante volte da quando c'è stato l'avvento così di massa dominante di cellulari, dei vari social network eccetera, da sempre è stata, da che sono arrivati diciamo nelle nostre mani così diffusamente, la paura che la lingua italiana potesse in qualche modo essere particolarmente penalizzata, no? Tutte queste abbreviazioni, queste come possiamo dire, mutuare anche dalla lingua inglese dei termini che poi vengono italianizzati, usare magari delle lettere per dire tutta una parola, e poi c'è il T9, quante volte ci fa anche arrabbiare il T9 che corregge delle cose che noi vorremmo scrivere in un altro modo invece. E c'era questa paura ventilata anche molto dai linguisti del rischio dell'analfabetismo di ritorno, nel senso che anche soprattutto per i più giovani che usano moltissimo il cellulare, certe frasi tronche, certe parole spezzate, che questo potesse deteriorare la lingua italiana. Parrebbe che non sia così, ne parliamo comunque a proposito del Festival della Scrittura Creativa di Gradoli, che è un bel borgo vicino Viterbo, nel Lazio. Stefano Bussa, ideatore di questo festival. Bussa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Quindi, in cosa consiste innanzitutto questo festival? Allora, il festival è un festival sperimentale, in quanto si tratta della prima edizione, e poi di un tipo di confronto di scrittura di nuovo tipo. I concorrenti si confrontano con delle prove di scrittura in prosa molto brevi, e la lunghezza nasce più o meno dai testi compatibili con le comunicazioni che vengono fatte su smartphone o tablet, però su temi stabiliti, e quindi diciamo non è la prova di scrittura in quanto tale direttamente finalizzata all'uso su strutture tecnologiche, ma è diciamo una palestra linguistica su testi molto brevi, dove si valuta la capacità di riuscire in poche righe, parliamo di 600-800 battute, la capacità di trasmettere un'emozione, un divertimento, e quindi di stabilire comunque una comunicazione. Quindi c'è anche un concorso in realtà in questo festival, che dura da quando a quando, lì a Gradoli? Allora, il festival, la serata finale è oggi alle 9.30 al Teatro Comunale di Gradoli. La fase preliminare invece è durata 6 mesi, nella quale sono state raccolte le prove di scrittura, che sono state valutate prima da un'apposita giuria di 8 persone in modo anonimo su parametri stabiliti nel regolamento. Ma anche in teatro ci sarà la votazione del pubblico, e questo permetterà ai concorrenti di avere sia la valutazione di una giuria apposita che ha studiato le cose con più calma, ma sia anche un riscontro di quello che è l'effetto immediato dei loro scritti sul pubblico. Però Bussa, bisogna essere lì presenti per partecipare a questo concorso, o si possono anche spedire questi brevi scritti? Allora, la raccolta delle prove di scrittura è avvenuta via internet, via mail, poi delle persone hanno codificato le prove di scrittura in modo anonimo e sono state valutate. Quelle selezionate verranno in parte premiate questa sera, e tutte le altre selezionate verranno sottoposte alla votazione del pubblico in sala. Quindi c'è questo doppio, diciamo così, riscontro in relazione a quello che si è scritto. Quindi Bussa, lei che si è inventato questo festival, significa che anche se ci sono queste frasi mozze, la K usata al posto del che, no? Ritiene che questo possa spingere in realtà a essere più creativi, perché bisogna scrivere per esempio su Twitter frasi brevi. Che le siano chiare e siano esemplificative. Però non è esattamente così, perché questo si oppone un pochettino a quello che sta dicendo, nel senso che inizialmente, come aveva anche accennato lei, gli SMS, il T9 hanno portato a un declino che io definisco catastrofico, e quindi diciamo trasformando la lingua italiana a una specie di gergo telegrafico. Noi andiamo su valutazione di testi un pochino più lunghi, ma che devono essere comunque in italiano corretto, quindi diciamo che l'obiettivo è quello di creare una forma di scrittura breve, ma che sia comunque corretta e quindi rispettosa della grammatica, e nello stesso tempo creativa, nel senso di arrivare a comunicare un'emozione, un'informazione o uno spunto di riflessione con testi molto molto brevi, quindi meno di mezza pagina. Tutto questo diciamo ha anche l'obiettivo di conciliare una lingua italiana corretta con dei testi molto brevi e quindi con anche la possibilità di usarli in situazioni di comunicazione, dell'informazione, del commento all'attualità o anche letterario. Insomma. Lei ritiene che sia un passo avanti questo uso della lingua con i social? O un'alternativa, un'evoluzione? Diciamo che quello che ho voluto creare io è proprio questa conciliazione tra la necessità di testi molto brevi. Oggi noi non abbiamo più le lettere, io quando ero ragazzo scrivevo lettere di 8 pagine, 10 pagine, insomma, no? Oggi si usano le mail oppure i contatti sui social network, sono comunque testi brevi, quindi di conciliare la brevità dei testi che sono adatti alla vita di oggi, però senza scadere, ecco, nella trasformazione della lingua italiana a gergo telegrafico, quindi di usare in modo corretto, possibilmente anche elegante e creativo, la lingua italiana in una forma che sia conciliabile con le nuove tecnologie. Grazie Stefano Bussa, allora buon Festival della Scrittura a Grado, glielo ricordo, no? Un bel borgo vicino Viterbo, un bel borgo, sì, Grado, sul lago di Bolsena, lago di Bolsena. Quindi anche un posto dove uno si può fare una gita piacevolmente. Una gita e poi questa sera ci sarà anche il festival. Grazie Bussa, grazie buon festival. Arrivederci. Vi do una notizia a proposito di trasporti, l'antitrust, l'autorità contro per la concorrenza, multa di 3,6 milioni di euro l'ATAC, l'azienda di trasporti comunale di Roma, per corse cancellate. Sempre un po' nell'occhio del mirino l'ATAC. E poi invece ha un'altra notizia che riguarda, perché rientra un po', esce dalla porta, rientra un po' dalla finestra, la politica in realtà non va mai in vacanza, nel senso che i politici vanno in vacanza, però si continua a parlare anche di retroscena eccetera, e anche dei sondaggi, perché secondo un sondaggio XE presentato oggi ad Agora Estate su Rete3, Gentiloni, il nostro Presidente del Consiglio, risulta essere il leader politico più amato dagli italiani, l'avreste detto, indicato dal 32% degli intervistati. Chi segue Gentiloni subito dopo al secondo posto? Renzi, col 25%, in calo di un punto rispetto alla settimana scorsa. Poi al terzo posto tra i leader italiani più amati c'è il segretario della Lega Salvini, 23%, in crescita di un punto invece lui rispetto alla settimana scorsa. E poi al quarto posto, quindi abbiamo detto Gentiloni, Renzi, Salvini, al quarto posto c'è Di Maio del Movimento 5 Stelle, poi Berlusconi, Di Maio col 18%, Berlusconi col 17%, l'araba fenice di Berlusconi, Meloni 17%, quindi al pari la presidente di Fratelli d'Italia con Berlusconi, Grillo al 16%, questa è la classifica di questo sondaggio XE. Vorrei però sentire ancora un ascoltatore all'800240024, Riccardo da Pisa. Sì, pronto. Buongiorno Riccardo, che voce squillante, molto salve, attivo. Buongiorno. Prego salve. Riccardo. No, io volevo fare una domanda riguardo i seggiolini per neonati. Ho un figlio e mi trovo nel dubbio. Se posso metterlo nel seggiolino del passeggero, perché essendo da soli, a volte o mia moglie o io, tenerlo dietro, insomma, è rischioso, perché se succede qualcosa non si riesce a vedere, se è possibile per la legge. Senti, purtroppo in questo momento Riccardo non so darti una risposta, se però tu lasci poi il tuo numero, visto che sei stato richiamato in regia, io provo a informarmi con il vicequestore di prima della Polizia Stradale e vediamo di darti una risposta su questo. Non mi sembra mai di vederli sul sedile del passeggero, però provo a chiedere, d'accordo Riccardo? Benissimo, la ringrazio. Grazie a te Riccardo e buon viaggio. E a questo punto ci dobbiamo salutare. Qui finisce questa puntata. Ringrazio Cristian Goldoni, Barbara Bianchi, Chiara Compagnoni, Giulia Lauricella, la parte tecnica Paolo Corleoni, da Roberta Giordano. L'appuntamento è lunedì alle 8. Naturalmente, intanto, buone stelle a tutti.